Attenzione l'amico Semicubi. Comunque mi stanno le mancanze a vino. No, come stavano in questi rintrucciulliti di Sebeggio, con questi telefonini, con questi polli, questi cazzo di telefono mera, e tanto che ne esiste. No, se niente, tutto, e ti compri una tappitta, magari trovi qualche peppitta d'oro.